solo va, scende se, scende a te gorilla. Solo va, scende se, scende a te gorilla. Solo va, scende se, scende a te gorilla. Eso. Scende se, scende se. Solo va, scende se, scende a te gorilla. Solo va, scende se, scende a te gorilla. Eso. Scende se, scende se. Send the same.